Ad alta voce, Anna Bonaiuto legge La sovrana lettrice di Alan Bennett. Traduzione di Monica Pavani. Adesso che era sola, però, Sua Maestà intratteneva lunghe conversazioni con se stessa e trascriveva sempre più i suoi pensieri. I quaderni si moltiplicavano e il loro campo d'indagine si allargava. La chiave di volta della felicità è non sentirsi investiti di alcun diritto, aggiunse un asterisco e annotò a fondo pagina una lezione che non ho mai avuto l'opportunità di apprendere. Una volta stavo conferendo il titolo di Companion of Honor a Anthony Powell, se non sbaglio, e si parlava di comportamenti incivili. Proprio lui, così a modo, anzi convenzionalista, osservò che uno scrittore resta pur sempre un essere umano. Lo stesso non vale per la regina, ma questo non gliel'ho detto. Io devo sempre sembrare un essere umano, non per forza esserlo. A quelle sono preposte altre persone. La regina si trovò anche ad annotare descrizioni di persone che incontrava, non necessariamente famose, i loro comportamenti, il modo di parlare, le storie che le raccontavano, spesso in via confidenziale. Quando i giornali pubblicavano l'ennesimo scoop sulla famiglia reale, registrava sul suo taccuino com'erano veramente andate le cose. Se qualche scandalo sfuggiva all'attenzione pubblica, veniva annotato anche quello, il tutto reso con quel tono giudizioso e pratico in cui ormai la regina si compiaceva di riconoscere uno stile suo. Senza più Norman, Sua Maestà prese nuove direzioni. Ordinava sempre i libri alla London Library e in libreria, ma adesso non era più un segreto fra lei e il suo assistente. Adesso doveva fare richiesta a una dama di compagnia, che doveva fare richiesta al direttore amministrativo e così via. Era un iter sfinente e ogni tanto la regina lo aggirava incaricando i nipoti meno in vista. I ragazzi erano felici che almeno lei si ricordasse di loro, dato che di solito venivano completamente ignorati dal pubblico. Ma sempre più spesso la regina prendeva i libri dalle sue biblioteche, in particolare da quella di Windsor, dove, pur non essendoci una gran scelta di autori moderni, gli scaffali traboccavano di edizioni di classici, alcune delle quali ovviamente autografate, per esempio da Thackeray, Balzac, Turgenev, Dickens, Trollope, George Eliot, Thomas Hardy, libri che un tempo avrebbe ritenuto al di là delle sue capacità, ma che adesso leggeva con scioltezza, matita alla mano, scrivendo sui suoi taccuini ordinati. Era dai tempi di Giorgio III che quegli antichi scaffali non vedevano un lettore così assiduo, rifletté il bibliotecario. Costui era stato uno dei tanti a menzionare alla regina le attrattive di Jane Austen, ma l'insistenza generale le creava delle resistenze. Inoltre, rispetto a quell'autrice, era frenata da un impedimento unico nel suo genere. C'era un tale divario tra la regina e qualunque suddito, sia pure il più illustre, che le differenze sociali non le erano percepibili. Dal momento che l'essenza di Jane Austen stava proprio nella sottigliezza delle sfumature sociali, e che agli occhi della regina esse avevano ancora meno importanza che per il lettore comune, la lettura le riusciva particolarmente faticosa. I libri di Jane Austen erano praticamente dei trattati di entomologia. I personaggi non erano proprio formiche, ma alla regina apparivano così simili fra loro che ci sarebbe voluto un microscopio. Fu solo con l'approfondirsi della sua comprensione sia della letteratura sia della natura umana che essi acquistarono individualità e fascino. Per la stessa ragione, perlomeno all'inizio, nemmeno il femminismo le parve degno di nota, poiché le differenze di genere, come le distinzioni di classe, erano nulla in confronto all'abisso che separava la regina dal resto dell'umanità. Ma che si trattasse di Jane Austen, del femminismo o anche di Dostoevsky, la regina alla fine trovava modo di colmare queste e altre lacune. Però le veniva sempre qualche rimpianto. Anni prima, a Oxford, si era trovata a pranzo accanto a Lord David Cecil e non aveva saputo cosa dirgli. Solo adesso aveva scoperto che costui aveva scritto dei libri su Jane Austen, oltre che su tanti altri, e adesso sì che avrebbe apprezzato quell'incontro. Ma Lord David era morto e quindi era troppo tardi. Troppo tardi. Era sempre troppo tardi. Ma lei andava avanti, più decisa che mai, a fare il possibile per mettersi al passo. Intanto a palazzo tutto procedeva liscio come sempre. Gli spostamenti da Londra a Windsor, nel Norfolk o in Scozia, non comportavano grande impegno, perlomeno da parte della regina, che a volte finiva per sentirsi superflua, come se in quelle continue traslazioni non ci fosse alcuna considerazione per la persona che ne era al centro. Era un rituale di partenze e di arrivi in cui lei era solo un bagaglio, il più importante, nessuno lo negava, ma sempre e comunque un bagaglio. Comunque quelle peregrinazioni andavano meglio che in passato, perché lei era sempre sprofondata in un libro. Sua Maestà saliva in auto a Buckingham Palace e scendeva a Windsor senza abbandonare un attimo il capitano Crouchback nell'evacuazione di Creta. Volava in Scozia felicemente accompagnata da Tristram Shandy, che a tratti la esasperava, e se si annoiava c'era sempre Trollope a portata di mano. A furia di leggere, la regina era diventata una viaggiatrice remissiva e per nulla esigente. Certo, non spaccava più il minuto come un tempo e l'auto, in attesa sotto il baldacchino in cortile, con il duca sempre più stizzito sul sedile di dietro, era ormai uno spettacolo familiare. La regina, invece, quando alla fine si decideva a salire in auto, non era mai stizzita. Dopotutto aveva il suo libro. A palazzo, però, non avevano quel conforto e gli attendenti diventavano sempre più critici e spazientiti. L'attendente, per quanto squisitamente educato, resta in sostanza un direttore di scena, sempre pronto a porgere i suoi ossequi. Sa che si tratta di una recita. Lui, raramente una lei, si occupa della regia e Sua Maestà interpreta il ruolo principale. Anche gli spettatori, e quando si tratta della regina sono tutti spettatori, sanno che è una recita, ma cercano di convincersi che non lo sia fino in fondo e di pensare che al di là della finzione ogni tanto sia dato sorprendere un comportamento più naturale, più vero, per esempio cogliendo casualmente una frase: muoio dalla voglia di un gin tonic detto dalla regina madre, o maledetti cagnacci dal duca di Edimburgo, o intravedendo Sua Maestà che si siede a una festa in giardino e si toglie le scarpe con grande soddisfazione. Anche se, a ben vedere, quei momenti in apparenza più spontanei sono pur sempre una messa in scena, come quella della famiglia reale nella sua veste più ieratica. Questo spettacolo, o meglio teatrino, si potrebbe chiamare la simulazione della normalità ed è artefatto quanto la più solenne apparizione pubblica, anche se chi vi assiste o capta qualche discorso crede di vedere la regina nella sua versione più umana e genuina. Formalità e informalità. Tutto rientra in quella rappresentazione allestita dagli attendenti e che, tranne i momenti che paiono fuori dal copione, agli occhi del pubblico è di fatto impeccabile. A poco, però, gli attendenti notarono che gli scorci di verità erano sempre più rari. Pur essendo ligia ai suoi doveri, Sua Maestà a quello si limitava. Non fingeva più, per così dire, di uscire dai ranghi e ormai di rado si lasciava andare ai suoi commenti estemporanei. «Attento», diceva magari appuntando una medaglia sul petto di un giovanotto, «non vorrei infilzarle il cuore». Tutte frasi di cui far tesoro, insieme al biglietto d'invito, al permesso speciale di parcheggio e alla cartina del palazzo. Ultimamente la regina era formale e sorridente, ma evitava le sortite pseudo-spigliate con cui era solita animare gli eventi. «Brutto spettacolo», pensavano gli attendenti in senso letterale, «un brutto spettacolo in cui Sua Maestà aveva recitato male». Ma non potevano certo farglielo notare, perché complici nella finzione che quei momenti fossero genuini sprazzi di umorismo da parte di Sua Maestà. Un giorno fu la volta di un'investitura. «È stata meno spontanea stamattina, Maestà», si azzardò a dire uno degli attendenti più audaci. «Davvero?» si stupì lei, che un tempo non avrebbe nemmeno accettato una critica così blanda, mentre adesso non le faceva né caldo né freddo. «Credo di sapere perché. Vede, Gerald, quando sono inginocchiati e vedo le loro teste chine, non posso non trovare commoventi anche i personaggi più sgradevoli. Un accenno di pelata, i capelli sul colletto, vengono quasi dei sentimenti materni». L'attendente, col quale la regina non si era mai confidata in quel modo e che avrebbe dovuto sentirsene lusingato, provò solo disagio e imbarazzo. Era un lato davvero umano della sovrana di cui non si era mai reso conto e che, a differenza delle versioni contraffatte, non gradiva molto. E se da parte sua la regina riteneva che potessero essere le letture a suscitarle quei sentimenti, il giovanotto sospettò che fosse il passare degli anni, e fu così che i primi cedimenti emotivi vennero scambiati per un principio di senilità. Da sempre refrattaria all'imbarazzo, anche a quello che poteva suscitare negli altri, la regina una volta non avrebbe fatto caso alla confusione dell'attendente, ma adesso la notò e decise che in futuro si sarebbe guardata dall'esprimere i suoi pensieri in maniera così intima, anche se era un peccato, perché era quello che gran parte della nazione voleva da lei. Decise invece di affidare le sue confidenze ai taccuini, dove non potevano nuocere a nessuno. La regina non era mai stata espansiva. L'avevano educata a non esserlo, ma negli ultimi anni, in particolare dopo la morte della principessa Diana, sempre più spesso le veniva chiesto di esternare dei sentimenti che avrebbe preferito tenere per sé. All'epoca, però, non aveva ancora cominciato a leggere e solo ora si rendeva conto di condividere con gli altri quelle difficoltà. Per esempio, con Cordelia. La regina scrisse sul taccuino: «Anche se Shakespeare non lo capisco sempre, quando Cordelia dice "non riesco a trarre il cuore in bocca", condivido appieno il suo sentimento. Il suo problema è il mio». La regina cercava di non farsi notare quando scriveva sul taccuino, ma questo non bastò a rassicurare il suo attendente. Un paio di volte l'aveva sorpresa a prendere appunti e aveva pensato che anche questo fosse indice di turbe psichiche. Cosa aveva da scrivere Sua Maestà? Non si era mai comportata così e il cambiamento venne attribuito all'età. «Avrà l'Alzheimer», disse un altro giovanotto. «È quando bisogna scrivergli tutte le cose che devono fare, vero?» Fu questo che, insieme al crescente disinteresse della regina per le apparenze, fece temere il peggio ai cortigiani. Che la sovrana potesse soffrire del morbo di Alzheimer era sconvolgente nel senso più ovvio, quello umano e pietoso, ma per Gerald e gli altri attendenti era più sottilmente deplorevole che Sua Maestà, abituata da sempre a condurre vita appartata, lasciasse intuire a così tanti sudditi il suo umiliante declino. L'attendente riteneva più appropriata una regale clausura, dove alla regina e ai monarchi in generale fosse garantita maggiore libertà e perfino stravaganza di comportamento prima che le toccasse una diagnosi plebea come il morbo di Alzheimer. Sarebbe potuto essere un sillogismo se Gerald avesse saputo cos'era un sillogismo. L'Alzheimer è plebeo, la regina non è plebea, dunque la regina non ha l'Alzheimer. E infatti non lo aveva. Anzi, non era mai stata così padrona delle sue facoltà e, a differenza del suo attendente, avrebbe certo saputo cos'è un sillogismo. E poi, a parte il taccuino e i ritardi ormai cronici, in cosa sarebbe consistito il suo declino? Una spilla sfoggiata più di una volta, per esempio, o un paio di scarpe scollate indossate per 2 giorni di seguito? La verità era che a Sua Maestà queste cose non importavano, o non importavano più come prima, e così anche i suoi collaboratori, non certo ineccepibili, cominciarono a infischiarsene, lasciando correre laddove la regina un tempo non l'avrebbe mai consentito. Ci aveva sempre tenuto molto al vestire. Aveva una conoscenza enciclopedica del proprio guardaroba e degli accessori combinati e si era sempre premurata di variare le sue mise. Ora non più. Nessuno avrebbe ritenuto trascurata una donna normale che indossasse 2 volte lo stesso vestito nel giro di 15 giorni. Trattandosi però della regina, i cui cambi di vestiario venivano accuratamente studiati fino all'ultima fibbia, quelle repliche segnalavano una drastica caduta del decoro che si era sempre imposta di rispettare. «Ma non ci tiene, maestà?» le chiese audacemente la cameriera. «Non ci tengo a cosa?» fu la poco rassicurante risposta. La cameriera si convinse che avesse davvero qualche rotella fuori posto e fu così che anche i domestici, al pari degli attendenti, cominciarono a prepararsi a un lungo declino. Anche se vedeva la regina tutte le settimane, il primo ministro non si accorgeva certo se Sua Maestà mancava di variare l'abbigliamento o aveva sempre gli stessi orecchini. Non era sempre stato così e all'inizio del suo mandato si era spesso complimentato con la regina per quello che indossava e per i gioielli sempre discreti. Allora lui era più giovane, certo, e gli sembrava una galanteria, ma era anche un modo di sfogare la tensione. Lei invece non era mai tesa e sapeva per esperienza che i primi ministri, a eccezione di Heath e della Thatcher, attraversavano quella fase, ma poi, passata la novità degli incontri settimanali, la galanteria svaniva di conseguenza. Un'altra sfaccettatura del leggendario legame tra la regina e il suo primo ministro era dunque il calo d'attenzione di quest'ultimo per l'aspetto di Sua Maestà, che andava di pari passo con il minor interesse per quello che lei aveva da dire. Come vestiva e quel che pensava importavano sempre meno e, orecchini o non orecchini, quando la regina faceva un commento si sentiva come un assistente di volo che illustra le procedure di sicurezza. Il primo ministro aveva l'espressione benevola e distratta del passeggero che sente quella solfa per l'ennesima volta. La noia e la disattenzione, però, non erano solo di lui. Anche la regina, col fatto che leggeva di più, provava insofferenza per quei colloqui, così pensò bene di vivacizzarli collegandoli ai suoi studi e alle recenti nozioni di storia. Non fu una buona idea. Il primo ministro non credeva davvero nel passato né nelle lezioni che se ne potevano trarre. Una sera stavano parlando del Medio Oriente quando lei si azzardò a dire «È la culla della civiltà, sa?» «E lo sarà di nuovo, maestà», ribatté lui, «a patto che possiamo continuare col nostro impegno». Dopodiché svicolò mettendosi a elogiare il nuovo sistema fognario e la fornitura di cabine di trasformazione. Lei lo interruppe di nuovo. «Speriamo che non vada a detrimento dei reperti archeologici. La sa la storia di Ur». Il primo ministro non la sapeva e più tardi la regina scrisse sul suo taccuino: prendere decisioni ottenebra la mente. Quel giorno, quando il primo ministro fece per andarsene, lei mandò a cercare un paio di libri che potevano essergli utili. La settimana successiva gli chiese se li aveva letti. Ovviamente no. Li ho trovati di grande interesse, maestà. Bene, allora dobbiamo procurargliene altri. Mi sembra una buona cosa. Poi fu la volta dell'Iran e la regina chiese al primo ministro se conosceva la storia della Persia o dell'Iran. Per lui l'associazione non era così ovvia e gli diede anche un libro sull'argomento. Sua maestà ci stava prendendo gusto. Dopo due o tre sessioni del genere, il martedì pomeriggio, che fino allora il primo ministro aveva aspettato come un'oasi di pace nella sua settimana di lavoro, divenne per lui motivo di ansia. La regina lo interrogava come se lui dovesse fare i compiti. Se poi scopriva che non aveva letto i libri, sorrideva con indulgenza. «La mia esperienza di primi ministri, caro primo ministro, mi ha insegnato che, ad eccezione di Mr. Macmillan, preferiscono incaricare qualcun altro di leggere al loro posto. C'è molto da fare, maestà». «Questo sì», disse sua maestà tornando al suo libro. «Ci vediamo la settimana prossima». Alla fine, Sir Kevin ricevette una telefonata dal consigliere speciale. «Il tuo capo sta rendendo la vita impossibile al mio». «Sì, sì». «Gli dà dei libri da leggere. Roba da matti. A sua maestà piace leggere e a me piace farmi ciucciare il cazzo, ma non lo chiedo al primo ministro. Come la mettiamo, Kevin?» «Parlerò a sua maestà». «Bravo, Kev, e dille di darci un taglio». Sir Kevin non parlò a sua maestà e men che meno le disse di darci un taglio. Abbassò la cresta e andò a trovare Sir Claude. Nel giardinetto del suo incantevole cottage seicentesco di Hampton Court, graziosamente concessogli dalla corona, Sir Claude Pollington era assorto nella lettura. O perlomeno così sembrava. In realtà sonnecchiava davanti a un fascicolo di documenti riservati che gli avevano spedito dalla biblioteca di Windsor, un privilegio ottenuto in qualità di anziano servitore reale, ormai più che novantenne, ma sempre impegnato nella stesura della sua autobiografia, dal titolo provvisorio di «Una sovrumana sfacchinata». Uscito da Harrow a 18 anni, Sir Claude era passato al servizio reale come paggio di Giorgio V e non mancava mai di ricordare che una delle sue prime mansioni consisteva nel leccare le linguelle per i francobolli che il sovrano, irascibile e meticoloso, incollava sui suoi svariati album. «Nel caso fosse necessario individuare il mio DNA», aveva detto una volta Sir Claude in un talk show, «basterebbe guardare dietro i francobolli di decine e decine di album reali. Ricordo in particolare quelli della Repubblica di Tuva, che sua maestà trovava di pessimo gusto, ma si sentiva tenuto a collezionarli. Tipico di sua maestà, scrupoloso all'eccesso». E al momento di scegliere la canzone, optò per la voce bianca di Ernest Loth, che cantava «Oh, for the wings of a dove». Nel suo salottino, ogni superficie pullulava di fotografie incorniciate dei vari reali che Sir Claude aveva servito così fedelmente. Eccolo ad Ascot che regge il binocolo del re, accovacciato nella brughiera mentre sua maestà prende di mira un cervo lontano. In un'altra seguiva la regina Maria che usciva da un negozio di antiquariato di Harrogate. Il viso del giovane Pollington era nascosto dietro a un pacco contenente un vaso Wedgwood che lo sventurato commerciante aveva regalato controvoglia a sua maestà. E in un'altra ancora indossava una maglia a righe e aiutava a equipaggiare la Nailin in quella fatale crociera nel Mediterraneo dove c'era anche una certa signora Simpson con il berretto da yacht. Una foto che spariva dalla vista quando, come accadeva spesso, la regina madre andava a prendere il tè da lui. La famiglia reale non aveva mai avuto molti segreti per Sir Claude. Dopo essere stato al servizio di Giorgio V, era passato per un breve periodo a Edoardo VIII e quindi si era spostato senza intoppi alla corte di suo fratello Giorgio VI. Aveva svolto diverse mansioni in molti uffici del palazzo per ricoprire infine il ruolo di segretario privato della regina. Anche quando era già in pensione da un pezzo, gli chiedevano spesso consiglio. Lui incarnava la persona fidata, l'elogio più ambito nel milieu. Adesso però le mani gli tremavano parecchio e non badava più all'igiene personale come un tempo, e Sir Kevin, pur essendosi seduto con lui nel fragrante giardino, si trovò a trattenere il respiro. «Perché non andiamo dentro?» chiese Sir Claude. «Magari c'è del tè?» «No, no!» si affrettò a dire Sir Kevin. «Preferisco qui!» Spiegò il suo problema. «Sua maestà legge?» disse Sir Claude. «E che male può farle? Sua maestà ha preso dalla sua omonima, la prima Elisabetta. Anche lei era un'accanita lettrice. Naturalmente allora c'erano meno libri. E anche alla regina madre non dispiaceva leggere. La regina Maria invece ne faceva volentieri a meno, come Giorgio V. Lui era un grande collezionista di francobolli. È così che ho cominciato, sa? Leccando linguelle». Un domestico ancora più vecchio di Sir Claude portò fuori il tè che Sir Kevin si versò con circospezione. «Sua maestà è molto legata a lei, Sir Claude?» «Ed è reciproco», disse il vecchio. «Stravedo per sua maestà da quando era bambina. Una vita!» «E una vita emerita, con una bella guerra in cui il giovane Pollington si era guadagnato medaglie ed encomi per poi approdare allo Stato Maggiore». «Ho servito 3 regine», gli piaceva dire, «e andavo d'accordo con tutte. La sola reginetta con cui non mi sono mai trovato era il generale Montgomery». «Sua maestà tiene in gran conto i suoi consigli», disse Sir Kevin chiedendosi se il pan di Spagna fosse commestibile. «Me lo auguro davvero», fece Sir Claude. «Che dire, la regina legge. Proprio una cosa curiosa. Prego, favorisca». Sir Kevin fece appena in tempo ad accorgersi che quella che aveva scambiato per glassa in realtà era muffa e infilò di nascosto la torta nella 24 ore. «Forse lei potrebbe richiamarla al dovere?» «Oh, sua maestà non ne ha mai avuto bisogno. Il senso del dovere ce l'ha anche troppo. Mi faccia pensare». E mentre Sir Kevin aspettava, il vecchio meditò. Solo dopo un pezzo Sir Kevin si accorse che Sir Claude si era addormentato. Si alzò facendo rumore. «Verrò senz'altro», disse Sir Claude. «È da un po' che non esco. Mi fa mandare un'auto». «Naturalmente», disse Sir Kevin stringendogli la mano. «Stia comodo». E mentre se ne andava, Sir Claude gli urlò dietro: «È lei il neozelandese, vero?»